bella zio, tutto a posto? Tutto ok, dai. Bella. Tutto a posto. Che tra... due coglioni. Sì, cazzo. Oggi ancora sta davanti a sta cazzo di scuola. Meno male che poi arriva Michele, minchia, lo ammazziamo. Quello sfigato di merda, è ancora in giro, minchia. Sì, quello scemo, minchia. Oh, ah. Dai, fammi su un filtrino, dai, oh. Dai, ah. Non so il fuffo. Sei un coglione. Oh, Gina! Oh, bella. Ciao, tutto a posto. Allora... Ma lo sai che ho visto prima? Ma che hai visto? Per rincoglionito di Michele. Minchia, allora lo andiamo a prendere adesso. Facciamo un culo così. Dai, oh, Michele, ragazzi, andiamo a prenderlo! Oh, zio, però facciamo uno su sto joint, oh. Dai, oh. Zitti sfigatelli, Tony spacca, Musi arriva. Lascerò contusi, vi spacco la gengiva. I pugni nelle mani sono la prerogativa. Che mi cacci il cash, è l'alternativa. Scendo nella piazza, uomo faccio brutto. Con la catenazza, la sizza, la butto. Non me ne frega un cazzo di te, me ne fotto. Io m'appizzi il lotto, ma tu ci resti sotto. Ne ho menato uno ieri a scuola. Ho messo la sua faccia sotto la mia suola. Mi sembrava fracchia, l'ho preso per la gola. Pugni sulla faccia, la sua faccia ora è viola. Chiudiamolo nei bagni e bruciamogli i capelli. Bidelli lo sentono gridare, meniamo pure quelli. Tu sei uno sfigato che gira col Garelli. Ti taglierò la sella con i coltelli. Noi ce la giriamo con il booster. Mi faccio questa figa, mi sembra ciò di Foster. A te va di sfiga, le pippe con il poster. Ti meno giù alle giostre a colpi di bluster. Sparisci tipo Casper. Scemo pagliaccio. Bam, bam, pugni sulla faccia. Bam, bam, coglione. Zitta merdaccia. Bam, bam, tenetegli le braccia. Bam, bam, bam, pugni sulla faccia. Bam, bam, zitta merdaccia. Bam, bam, tenetegli le braccia, riga. Appena entro a scuola, sai, ho paura. Tony Spaccamusi è la mia congiura. Supero la porta, corro in corridoio. Verso la mia classe, cazzo raga, qua muoio. Mi piace la lettura, penso che la forza stia nella cultura. Sono un tipo sano, mangio la verdura. Leggo Harry Potter, farò architettura. Non ho molti amici, gioco con le magic. Sono un tipo timido, ma ho altri pregi. Tony Spaccamusi mi ha riempito di sfregi. Ne ho uno sulla schiena che mi sembra il Tamigi. Quanti litigi, anche su YouTube ho visto il mio video. Tony mi picchiava, un altro riprendeva. La gente che rideva, in coro mi sfotteva. L'ha visto anche mio padre, ora mi chiama mezza sega. Con tutti i suoi regaz, Tony è arrivato, brusco e ardillo. Oh. Sei fottuto, Michele, tranquillo. I miei pugni sono strike, la tua testa è un cazzo di birillo. Prendi sto schiaffo. Bam, bam, pugni sulla faccia. Bam, bam, zitta merdaccia. Bam, bam, tenetegli le braccia. Venire, bam, oh, oh, che cazzo. Bam, bam, pugni sulla faccia. Tenetegli le braccia, riga! Ho scavallato soldi in abbondanza. Un deca per la benza, l'altro per la panza. Manda a fare in culo i professori in presidenza. Oggi me la bigio, fa tanza, mi compro la sostanza. Bella che mi imbusco nel sempione. Con il mio fumello lo strumo, faccio su un cannone. Strana situazione, dall'altra parte della recinzione vedo due persone. Uno sembra fatto, provo soggezione. Viene verso me, non capisco l'intenzione. Sembra come se voglia darmi una lezione. Cazzo, mi colpisce sulla faccia col tallone. Faccio per scappare, pugni sul molare. Sberle sulla faccia, non riesco a gridare. Calci nella pancia, dolore micidiale. Ho solo 15 anni e mi vuole ammazzare. Michele da lontano sta guardando. Io gli sto gridando, aiuto, ma lui sta pensando. Sono cazzi tuoi, Tony Spaccamusi. Accusa la violenza dei tuoi stessi soprusi. Pam pam pam pam. Basta! Pam pam, pugni sulla faccia. Pam pam, zitta merdaccia. Pam pam.